fata I complimenti con le donne miei pari, egli venne a contratto di danari, voi crudel più non fa, e come poi è geloso di voi, come lo sono I moderni mariti, per sistema infedeli, per genio capricciosi, e per orgoglio poi tutti gelosi. Ma se Figaro t'ama, I sol potreo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eccolo, vieni amico, madama impaziente. A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa e naturale. Possibile, naturale. Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima. Finiscila una volta. Ho già finito, quindi prese il partito di scegliere me corriero. E la Susanna, consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ho sinato, gli ho rifiuta diploma d'oro, che le destina. Di protegger Marcellina, questo è tutto da fare. E dai coraggio di trattar scherzando negozio Sicilio. Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto il fo capita che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste. O ciel che sento ad un uom si geloso. Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli I progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli fari a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo, ivi la traccia. Così quasi exabrupto e senza che abbia fatto per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. In faccia a lei non fia così d'opporsi ai voti miei. È ver, mai di lui vice sopporrà Marcellina. Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il piccio che rovino per mio consiglio non è ancora partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde mon fu sorpreso da madama s'è costretto a far poi quel che si brava. Che ti par non c'è nel nostro caso quando egli è persuaso e dove è tempo dito il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che rovino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo. E poi? E poi, se vuol andare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Che questo giovinotto abbia del conte l'istravaganza udita. Oh, tu non sai. Ma per quel caso mai da me stessa io non vedi. Dove la canzonetta? Eccola, appunto faccio anche ce la canti. Zitto, e gente. E adesso, avanti, avanti, signor ufficiale. Oh, non chiamarmi con nome si può fare. Che abbandonar del Gio amare tanto buono e tanto bello. Oh sì, certo. Oh sì, certo. Ipocritone, via presto la canzone che stamane a mi deste a madama cantate. Chi nell'auto guardate, egli ha due braccia di rossor sulla faccia. Prendi la mia chitarra e l'accompagno. Io sono sì tremante, ma se madama vuole, lo vuole, se lo vuole, manco parole. soldato Figaro vi informò. Tutto benisse. Lasciatemi vedere. Andrà benissimo. Siamo d'uguale statura. Giù qui otto, che fai? Niente paura. E se qualcuno entrasse, entri, che mai facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi accacciarli i capelli? Una mia cuffia prendi nel gabinetto. Presto. Che carta è qui? La patente. Che sollecita gente. L'ebbio Rorno Basilio. Dalla fretta ho pliato nel sigillo. Il sigillo di chi? Della patente. Aspetto che premura. Ecco la cuffia. Spicciati. Va bene. Miserabili noi, se il conte viene. Venite in ginocchiatevi. Più candido di mio. Questo foglio. Il nome è il foglio che Figaro gli scrisse. Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non intesi niente. Convien che abbiate i gran pensieri in mente. Di che? L'ave qualcuno! Chi volete che sia? Lo chiedo a voi. Lo io vengo in questo punto. Ah sì, Susanna, appunto. E passò, mi diceste, alla sua stanza. Susanna, e donde viene che siete sì turbata? Per la mia cameriera. Io non so nulla, ma turbata senz'altro. Ah, questa serva, più che non turba me, turba voi stesso. È vero, e lo vedrete adesso. Susanna, ora via sortite. Sortite, io così vo. Thank you. ben lasciate la Pirren senza chiavi. Ehi, gente! Come? Vorreste a repentaglio d'una dama all'onore? È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcuni nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò. Che imprudenza! Voi la condiscendenza di venir meco avrete, madama, eccovi il braccio. Andiamo! Andiamo! Susanna starà qui finché dormiamo! Stesso odeggio. Ahimè, fermate e ascoltatemi un po'. Mi credete capace di mancare al dovere? Come vi piace, entro quel gabinetto chi v'è chiuso vedrò. Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo. Non è dunque Susanna? No, ma invece l'oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciare. Per questa sera una burla innocente di farsi disponeva ed io vi giuro che non ho la resta. Chi è dunque? Dite! L'ucciderò! Sentite! Non ho cor! Parlate! È un fanciullo! Un fanciullo! Sì! Che rovino! E mi farà il destino ritrovare questo fanciullo in ogni luogo! Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'ha aperto il foglio! Esco mai, garzon, ma dato sciagurato non parlar! Ma signore, quel furore, per lui fammi il cor tremare, per lui fammi il cor tremare, per lui fammi il cor tremare! E non vorrei ancora usate. No, sentite. Via parlate. No, sentite. Via parlate. Parlate. Parlate. Thank you. so niente. Va lontan da io, i miei uomini fino a rempi a sei, e mi cerchi di infamar, e mi cerchi di infamar. Vado, sì, ma... Non ascolta, ma... Non ascolto. Non sorrea. Thank you. Dal vagone, che vedi che ho fatto in giardino, sì. capello vegeto, reprendo il birbone fuggito, e un tratto di vista uscì. Santo faccio! Sotto lo dì, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sei cotto la sorte del dì, sei cotto la sorte del dì. Oh, ripetimi, ripetimi! Fanciullo mi die. Per che fare? Vi manca. Vi manca. Il soggetto, il soggetto. Rispondi. Per usanza. Su via ti confondi. Per usanza di porre il soggetto. Thank you. Imbarazzo è mai questo? Un folio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel d'esso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, ma si mi razza il comune l'ardir, ma la contessa, ah, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa, e l'onore mio, l'onore, dove diamine l'ha posto umano errore, Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio. Invece tua voglio andarci obedesimo. Avanti sera dovrebbe ritornare. Dio, doloroso, pensa che in tua mano il mio riposo. E Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. O sia parlato, gli fo sposarla vecchia. Signor! Cosa bramate? Mi par che siete in collera. Volete qualche cosa? Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede fiaschetto degli odori. Prendete. Or ve il riporto. No, potete ritenerlo per voi. Per me? Questi non sono mali da donne triviali. Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo. Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste. Dio vi promisi quando? L'idea d'averlo inteso. Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa. Il mio dovere e quelli di sua eccellenza. Tenderà il fiaschetto. E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo. Carissima! Ingente! È mia senz'altro! Formitevi da vostro signor scaltro! Susanna, dove vai? Taci, senza avvocato, hai già vinta la causa! Cos'è nato? Hai già vinta la causa! Cosa sento? In qual occhio piacer mio la sentenza sarà. vestiti con quelli di Susanna e i suoi cavieri. Il favore della notte. Oh cielo, a quale mi è stato fatale, io son ridotta da un consorte crudele. Gelosia, disdegno. divisa la lite, o pagarla o sposarla, ora ammottite. Io respiro, ed io moro, al fin sposa io sarò d'un uomo d'oro. Eccellenza d'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar, bravo Don Curzio. Bontà di sua eccellenza! Che superba sentenza! In che superba! Siamo tutti vendicati! Io non la sposerò! La sposerai! Oh, pagarla, sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi d'ori! Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti? Dove sono? Chi sono? Lasciate a cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambin trovato? No, per tutto, dottor, anzi rubato. Come? Cosa? La prova. Il testimonio. L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovaro addosso ai masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico. Una spatola impressa al braccio destro. E a voi chi disse? Oh, Dio, è intesto. E verso mio. Chi? Chi? Raffaello. E i ladri ti rapirono. Presso un castello. Ecco tua madre. Aria. No. Sua madre, cosa sento? Ecco tuo padre, riconosci questo appresso, una madre ha dato figlio. Padre mio, fate lo stesso, non mi fate più arrossir, esistenza. Conoscenza, ma non lascia il tuo desir. E suo padre, stordito, e la sua madre, stordito, mi ogni sua cosa sentir. Io la figlia, e la sua madre, saresti amato. Io la figlia, la figlia, per la sedia amarrata, il desio amato. Tutta gloria, e la fortuna, la fortuna, non parliamo di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete. Oggi? No. E dove saranno? Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa. E questa ancora? Bravi, gitate pure che ho piglio ignora. Vogliamo informar d'ogni avventura, madama, il nostro zio, che al pari di contento, che al pari di contento. Io,